cercato dentro il tempo la risposta alle domande ripetute da un'eternità. E dopo mille notti ti ho guardata dentro gli occhi, adesso la verità. Avessi avuto solo un altro giorno per innamorarmi una volta soltanto. Nella vita corro, ma dove sto andando? Forse ti cerco, ma non ci sei. Io meridiano, te parallelo, viviamo di incroci, da sempre distanti, brilliamo di luce come diamanti. È vero, lo so che non sono ciò che vorresti. Osservare il movimento del mare, non vedo i tuoi occhi che brillano al sole. Essere felici in gruppo, ma persone sole. Tu mi hai distrutto come un'alluvione. Tu sai, è così. Sei semplicemente sabbia negli occhi, acqua che scorre, un brivido. Tu sai, è così. Sei semplicemente sabbia negli occhi, acqua che scorre, un brivido. Vorrei esternare l'attimo di un tuo sorriso e chiuderlo in cassaforte, così che ad 80 anni lo riguarderò e non avrò più paura nemmeno della morte. Vivere davvero per cercare di cambiare questa vita che non è come volevo. Tu farsi in mezzo al vuoto, imparare a respirare senza avere necessariamente fiato. Mentre passo da un respiro all'altro, da una stanza all'altra, scrivo e penso che non si ama mai abbastanza, che non c'è certezza, nulla di certo. Avessi avuto un po' più tempo per parlarti ancora, dirti ciò che non ho detto per paura. Avessi chiesto aiuto al cuore che non funziona, perché lo sai bene, io non ho la chiave. Sabbia negli occhi, acqua che scorre.